Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Le borse, abbastanza sorpresa e devo dire soprattutto Milano, a metà giornata, metà seduta, intorno alle 2:30 di pomeriggio hanno girato pesantemente in negativo e stanno per chiudere sui minimi, meno 4,6 S&P MIB, meno 4% MIBTEL, Parigi meno 2,3, Francoforte meno 2,6, Londra meno 1,80, Dow Jones meno 1,90%, euro quota 1,36, sono le banche, ed ecco perché Milano è più negativa di altre a pesare oggi. I realizzi sono molto forti, se ci auguriamo si tratta di si dovesse trattare di realizzi, di vendite dopo la corsa dei titoli bancari di quest'ultimo mese e mezzo. Il Banco Popolare perde quasi il 13% a 5,90 €, Intesa l'8,80 a 2,32 €, la Popolare Milano l'8,60 e Unicredit perde il 7,1, scende sotto i 2 € per azione. E ancora UbiBanca meno 6,7, Unipol meno 6,8, Monte dei Paschi meno 6%, Mediobanca meno 5,82%. Non riusciamo a capire, adesso avremo un approfondimento proprio sulle banche, perché oggi è uscita la trimestrale Unicredit, che non c'è parsa peggiore delle attese, anzi il fatto che Hypo Vereinsbank, la controllata tedesca di Unicredit, sia tornata inutile nel primo trimestre è una buona notizia, visto che aveva perso 280 milioni nell'ultimo trimestre. Unicredit ha dimezzato l'utile netto, ma resta un utile di quasi mezzo miliardo, 447 milioni, certo meno 58%, ma in linea con le attese. Tra l'altro, per quello che riguarda il ricorso ai Tremonti Bond e a quelli emessi analoghi emessi dal governo austriaco, il numero uno della banca, Profumo, ha detto stiamo valutando, non ha detto. Le generali sono uscite con un utile in calo, meno 88%, leggermente superiore alle attese degli analisti, però insomma resta un utile di 104 milioni. Non c'è una notizia drammatica o così forte da giustificare la girata che hanno preso le borse intorno alle 2:30-3. Vediamo e speriamo che non sia a questo punto, come dicono gli inglesi, sell in May and go away, cioè vendi in maggio e vai via, vai in vacanza. Ancora, tra chi va male, Fondiaria meno 10,6, pesante il calo, Buzzi Unicem meno 7,80, Pirelli meno 7,5, Prismia meno 7, Italcementi meno 7, Geox meno 6,2, Autogrill meno 6,1, oggi un bollettino di guerra, Saipem meno 6,1, Bulgari meno 5,6, Generali dicevamo meno 5,5 come Alleanza, Mondadori meno 5 come Steam Micro Electronics. Insomma, chi è positivo? A2A più 1,4, Terna più 1,3, Ansaldo STS bene adesso più 1,7, Finmeccanica più 0,80. Non c'è altro di positivo. Milano oggettivamente perde 2 punti in più rispetto alle medie delle borse europee. Adesso il calo sull'S&P MIB è di quasi il 5%, meno 4,7, torna sotto i 20.000 punti, a 19.300 punti l'S&P MIB. Però ne parleremo anche durante i mercati e per dare un giro sulle trimestrali delle banche italiane. Alcuni hanno voluto immaginare alcuni stress test anche per le banche italiane. In apertura la maxi multa erogata da Bruxelles all'Intel, la più alta mai affibbiata dall'antitrust europeo a una società, 1,6 miliardi di euro, la più alta come singola multa. In realtà Microsoft, con le 3 multe che si beccò, se le mettiamo assieme supera questa cifra, perché va a 1,676 miliardi. Comunque una multa immensa per un colosso come Intel. L'accusa è, come sempre in questi casi quando si muove l'antitrust europeo, abuso di posizione dominante per il gigante americano dei dei chip e dei microchips. Ancora i temi che tratteremo, avremo tutta la seconda parte dedicata all'Italia. Perché? Perché all'Italia e Malpensa, perché oggi i vertici di Alitalia hanno presentato i programmi della compagnia, dell'ex compagnia di bandiera per l'aeroporto Leonardo da Vinci, specificando e ricordando che sarà quello l'hub, ossia l'aeroporto di smistamento, di snodo per la nuova Alitalia, che Malpensa è di fatto un aeroporto low cost, e hanno presentato anche l'offerta dei voli low cost. Questa sarà anche l'occasione per capire alcune criticità ancora non risolte nella nuova Alitalia, soprattutto sulla tratta Milano-Roma, va detto, ritardi, cancellazioni e ritardi nei voli, e anche però per capire quale potrebbe essere il destino di Malpensa. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Arriviamo ai titoli, lo dico se c'è chi parla di rimbalzo del gatto morto, vabbè. No, vedremo cosa sarà. Non era Selling May and Say Goodbye, no, era Selling May and Go Away. Comunque andiamo avanti con le notizie. Il petrolio torna a $60 al barile, quindi resta stabilmente a $10 al barile in più rispetto a qualche settimana fa, dopo il dato sulle scorte americane che sono risultate in calo rispetto alle attese in maniera non prevista. L'OPEC però ha di nuovo tagliato le stime sulla domanda mondiale di greggio nel 2009. Diminuirà infatti, secondo l'OPEC, l'OPEC è l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, diminuirà di pari passo con la contrazione dei consumi mondiali e soprattutto di quelli negli Stati Uniti. L'Aula del Senato ha, sempre in tema di petrolio, ma questa volta di energia, ma questa volta gas, l'Aula del Senato ha cancellato la norma che prorogava i tetti antitrust sulla distribuzione del gas dal 31 dicembre 2010 fino al 31 dicembre 2015. E, visto che c'era un emendamento in questo senso di Cesare Cursi del PDL. Cambiamo tema, Euribor scende di nuovo al minimo storico, tanto ogni giorno un minimo storico, all'1,28%. Dati americani, le vendite al dettaglio sono andate purtroppo peggio delle stime, è inutile che chiediate il gufo, insomma, il gufo lo diamo quando c'è qualcuno che mena gramo, che fa il menagramo, non quando ci sono notizie effettive. Però vendita al dettaglio americano è meno 0,4%, ci si attendeva un dato invariato, però il numero uno del Ministero dell'Economia americano, sia il segretario al Tesoro Timothy Geithner, ha detto vediamo e osserviamo che il sistema finanziario sta iniziando a guarire i timori di un rischio sistemico, di un collasso del sistema sono oggettivamente diminuiti. Di Unicredito abbiamo già detto, utile dimezzato, comunque quasi mezzo miliardo, 447 milioni di euro nei primi tre mesi del 2009, con Hypo Vereinsbank che torna in utile e che con Alessandro Profumo, il numero uno di Unicredito, che dice la politica del dividendo verrà definita dal Consiglio di Amministrazione, vedremo come andrà a fine anno. Generali meno 88% l'utile, che scende a 104 milioni, i premi sono stabili a 18,5 miliardi, ramo danni ha fatto un più 3,5%, c'è anche la trimestrale di Mediolanum, meno 46% nei primi tre mesi dell'anno l'utile rispetto all'anno prima, ai tre mesi del 2008, l'utile di Mediolanum che scende così a 17 milioni di euro. All'Italia, ripeto a chi ci scrive al 349-238-6666, ne parleremo dopo le 18. Comunque, chiaro oggi di nuovo nella conferenza stampa Roberto Colaninno, presidente dell'Italia, spiegando che per la nuova Alitalia l'hub, ossia l'aeroporto di riferimento, di snodo, il perno, è Fiumicino. Nelle nostre scelte, insieme a Sabelli, naturalmente voi lo sapete, c'è una grossa decisione da prendere, importante: Milano, Roma, l'hub, non l'hub. Noi pensiamo che in principale la capitale di un paese debba rappresentare il punto di riferimento principale per queste importanti infrastrutture. La capitale è la capitale. E poi se poi questa capitale si chiama Roma, credo che la discussione sia finita, voglio dire. Quindi non è che noi, pensando a Roma, pensando a Fiumicino, diamo un giudizio negativo su Malpensa e su Linate. Malpensa e Linate rappresentano un territorio industriale straordinario per l'Italia, come Venezia, come Torino. E quindi certamente nel loro insieme, Roma e Milano, ma anche Milano, ma anche Venezia, ma anche Catania, ma anche Palermo, rappresentano una rete che, messa in rete, rappresenta veramente una grande infrastruttura di per sé. Probabilmente rappresenta quello che sarà l'hub del futuro, che fino a ieri rappresentava un territorio, probabilmente in futuro rappresenterà qualcosa di più importante, rappresenterà una regione, rappresenterà una nazione, rappresenterà un territorio sul quale gli individui si muovono con velocità e con mezzi sempre più efficienti. E quindi come hub vero e proprio Fiumicino e poi la rete già illustrata nel piano d'Italia di altri aeroporti, sei in tutto, tra cui appunto Catania, Milano, Venezia, Torino, come hub diffuso, smistamento diffuso. Ma ripeto, ne parleremo più avanti. Peggiora la situazione a Milano in borsa, meno 5,1% l'S&P MIB. E oggettivamente, vedremo di capire perché, peggiora anche l'America, meno 1,80, ma insomma tutte le altre borse europee perdono il 2,3, il 2,7, noi perdiamo oltre il 5. Va bene, va bene. Ultima notizia prima di iniziare col tema di approfondimento, terremoto. Il contributo per la ricostruzione e la riparazione delle case demolite dal terremoto coprirà per intero le spese necessarie. Lo ha stabilito un emendamento del governo al decreto legge per l'Abruzzo, per cui dal contributo, il contributo per la ricostruzione della casa sarà pari al 100% della spesa sostenuta e lo Stato potrà subentrare nei mutui delle persone che hanno subito danni dal terremoto qualora dovessero richiederlo, chiaramente per un importo massimo di fino a 150.000 euro. Lo Stato si sostituirà, diciamo, al privato. Adesso il primo tema in apertura, tema che riguarda una decisione storica dell'antitrust europeo. Da sempre l'antitrust europeo dà multe quando trova situazioni di abuso di posizione dominante, mai però ne aveva affibbiata una da oltre un miliardo di euro. E il record negativo se l'è beccato il colosso americano dei chip Intel. Abuso di posizione dominante per aver violato le regole antitrust mettendo in atto pratiche anticoncorrenziali illegali finalizzate ad escludere dal mercato dei chip per computer tutti i concorrenti. Questa è la motivazione classica, però siccome è la multa più alta che mai beccata da una società, ripeto, Microsoft ne ha prese tre, se non ricordo male, tutte assieme, e quindi se si sommano le tre multe di Microsoft si arriva a 1.670.000.000 di euro di multe che si è beccato Bill Gates, o meglio la società fondata da Bill Gates. Però le singole multe erano più basse, quella più imponente fu quella da 900.000.000 di euro per mancanza di cooperazione a seguito di una condanna per abuso di posizione dominante. Microsoft ha fatto ricorso e c'è ancora ricorso in corso, scusatemi, in gioco di parole. Enrico Brivio, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, buonasera. Buonasera. Ora, Intel, colosso, fondato nel 1968, sede a Santa Clara in California, capitalizza 84 miliardi di dollari, ha un giro d'affari di 37 miliardi di dollari. Scusatemi, c'è qualche problema forse di microfono, ma adesso dovrebbe essere a posto, e ha chiuso il 2008 con utili per 5 miliardi e ha, così chiudiamo la fotografia, 84 mila dipendenti. Come mai una multa di questo livello? Perché un miliardo significa un quinto di tutti gli utili fatti da Intel nel 2008. Ma diciamo che uno dei motivi di due parametri, insomma, sulle basi delle quali ha deciso la Commissione, sono la gravità delle infrazioni e la durata. Questa è una lunghissima inchiesta che dura da 10 anni, da quando AMD, che è il principale rivale di Intel presentò la prima denuncia e la commissione ritiene di aver accertato che tra il 2002 e il 2007, tra l'ottobre 2002 e dicembre 2007, quindi diciamo per ben 5 anni, Intel ha sfruttato questa sua posizione di preminenza, di dominio nel mercato di microchip in modo illegale. Come? Offrendo da un lato degli sconti ai clienti che accettavano di non rifornirsi di chip dai concorrenti di AMD, e secondo, forse ancora più grave, addirittura pagando dei produttori di computer affinché ritardassero la messa sul mercato, l'emissione sul mercato di prodotti che contenevano i chip dei concorrenti AMD. Queste sono comunque delle accuse che sono state ovviamente negate oggi da Intel, che promette ricorso, quindi la battaglia legale pare destinata a continuare. Anche perché le accuse, come tu ricordavi, sono pesanti, cioè dire che tu hai pagato i venditori perché si rifornissero da te, non significa, e hai pagato i produttori perché ritardassero l'immissione sul mercato di computer che contenevano i chip dei concorrenti, insomma, non è, cioè, non è così un'attività anticoncorrenziale da poco, Enrico. Sì, no, appunto, questo giustificherebbe la multa, giustifica la multa molto alta data dalla Cruz, anche se Intel invece sostiene che di aver praticato sì, degli sconti nei confronti di certi clienti, ma di averlo fatto non in modo condizionato, cioè di non aver condizionato questi sconti al mancato acquisto da parte dei clienti dei prodotti dei concorrenti. Però appunto Intel sostiene anche che, essendo gli attori principali sul mercato, loro e AMD, è inevitabile che se offrono degli sconti poi chi ne rimette in diretto concorrente. Insomma, questo è il punto di vista di Intel, mentre la commissione però ha offerto tutta una casistica molto dettagliata di casi in cui invece ci sarebbero, Bruxelles ritiene di avere delle prove che queste pratiche illecite sono state invece messe in atto dal gigante californiano, insomma. Un'ultima domanda e poi passiamo alle borse. Vi anticipo, la chiusura non è proprio sui minimi, cioè non è meno 5,1, è meno 4,86 adesso, però il MIB del meno 4%, e adesso vi arriviamo, sono le banche. Faremo un'ampia analisi, non abbiate fretta, da adesso fino alle 18 ci occuperemo sostanzialmente di banche e borsa, auguri. Però molti ascoltatori, Enrico, ci chiedono quando poi uno perde il ricorso e deve pagare la multa, dove vanno sti soldi? Questi soldi vanno al bilancio comunitario, quindi a tutti, in teoria insomma, a tutti i 27 paesi europei, oppure possono essere reinvestiti dalla Commissione europea in progetti comunitari. Comunque entrano nelle casse del budget europeo. Da lì poi non si sa cosa succede, però, nel senso che ti entrasse un miliardo in più europei. Un miliardo in più è una cioè, per voglio dire, non so, rifanno, riarredano gli uffici, pagano qualche funzionario in più visto che sono in pochi a Bruxelles, o lo distribuiscono per esempio per i fondi per le aree strutturali. Questo non... Sì, può succedere, insomma, diciamo che poi entra nel bilancio comunitario generale, quindi può anche aiutare a trovare quegli accordi tra i paesi che, quando poi devono mettersi d'accordo sul bilancio comunitario, si accapigliano sempre, almeno c'è un miliardo in più e quindi sarà più facile far quadrare i conti. Grazie Enrico Brivio in collegamento con noi da Bruxelles. Adesso meteo, pubblicità, poi vediamo di soddisfare, o cerchiamo di soddisfare, molti ascoltatori che hanno scritto al 349-238-6666 cercando di capire che cosa è successo su una borsa che tutto sommato viaggiava tranquilla fino a metà seduta e ha chiuso con un meno 4,90% l'S&P MIB. Si è mangiata quasi tutti i rialzi Piazza Affari da inizio anno, anche se rispetto al 9 marzo no, sto guardando evadamente, rispetto a inizio anno no, perché comunque fino a questa mattina il MIB era positivo da gennaio 2009 di un 6% quasi, l'S&P MIB di un 4,5%, per cui dovremmo ancora essere nella parte positiva del da gennaio ad ora. Certo che lo scivolone c'è stato ed è stato di quelli pesanti. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per affrontare il tema borse e banche, che poi oggi vuol dire abbastanza la stessa cosa, nel senso che, come molti ascoltatori giustamente fanno notare, Milano ha perso almeno il 2% in più rispetto alla media delle borse europee oggi, cioè un meno 4,90% sull'S&P MIB, meno 4% sul MIBTEL, perché sul nostro indice pesano molto i titoli bancari come peso complessivo nel comporre l'indice, ed è il motivo per cui Milano anche più aveva guadagnato in queste settimane, dal 9 marzo per la precisione, quando le borse hanno conosciuto questo periodo di rimbalzo. Infatti, se guardiamo Londra, praticamente fino a ieri era invariata da inizio anno, cioè l'indice FTSE valeva quello che valeva inizio anno, Milano fino a ieri aveva un 6% in più quasi di rialzo da inizio anno. Adesso questo rialzo se l'è mangiato il MIBTEL e se l'è mangiato anche l'S&P MIB, cioè con il calo di oggi le borse sono praticamente tornate quasi al livello di inizio anno. Sono ancora invece, lo dico per chi scrive, molto positive rispetto, se si va a guardare come riferimento il minimo toccato dalla borsa di Milano il 9 marzo, quando si è avuta un'altra sberla sul mercato. E da lì però poi è preso a salire. Dal 9 marzo ad ora il MIBTEL e l'S&P MIB sono ancora positivi di un 45% circa, più 45% dal 9 marzo. Detto ciò, è chiaro, e adesso ve lo leggiamo, che l'effetto si chiama effetto banca. Il Banco Popolare, dopo essere cresciuto del 220% dal 9 marzo, oggi ha perso il 13,4%, è sceso a 5,84 euro. Fondiaria ha perso l'11% e scende a 11,32 euro, Fondiaria SAI. Popolare di Milano meno 9%, scende sotto i 5 euro per azione a 4,60 euro. Intesa San Paolo perde l'8,2%, scende a 2,34 euro. Unicredito meno 7,6, scende sotto i 2 euro per azione a 1,94 euro. Ubibanca meno 7,6, 9,5 euro. Pirelli meno 7,5, Italcementi meno 7,2 come Buzzi Unicem, come Prismian e come Unipol. Il 6,90 lo perde Geox, il 6,6 il Monte dei Paschi, il 6,2 lo perde Bulgari, Saipem meno 6%, mi fermo con quelli che hanno perso entro il 5, Saipem meno 6%, Mediolanum meno 5,7 come Alleanza e Autogrill, il 5,5 lo ha perso Mediobanca, il 5,4 Mondadori, il 5,1 ST Microelectronics e anche Impregilo. Vabbè, diamo anche Generali meno 4,5 e Fiat meno 4,5 anch'essa. Chi ha guadagnato? Terna più 1,5, A2A più 1%, Ansaldo STS più 0,6%, Finmeccanica più 0,3%. E quindi parliamo adesso di borsa. Nel frattempo il rafforzamento anche l'euro a 1,36,3. L'America perde l'1,80 sul Dow Jones, il 2% sul Nasdaq, Parigi meno 2,5, Francoforte meno 2,6, Londra meno 2%. Quindi tutti cali, per carità significativi, ma di almeno 2 punti percentuali in meno rispetto a Milano. E allora iniziamo a ragionare di che cosa è successo a metà seduta, perché la borsa andava bene, era tranquilla fino a metà seduta e poi invece ha girato bruscamente. Andrea Fontana, Radio Colle Sole 24 ore, buonasera. Buonasera. C'è stato un motivo? Beh, certamente un mercato già orientato male, soprattutto sui finanziari, come ricordavi, dai conti in particolare della tedesca Allianz, è stato appesantito ulteriormente innanzitutto dai future di Wall Street e poi dall'apertura di Wall Street, che in questo momento perde l'1,8%, ma anche dai dati negativi delle vendite al dettaglio statunitensi, che nel mese di aprile sono stati inferiori alle attese. Questo ha alimentato negli operatori la tendenza a cedere, in particolare sui titoli finanziari, e va anche detto che alla metà seduta, per quanto riguarda in particolare il discorso di Milano, intorno appunto alla metà seduta sono usciti i conti di diversi istituti finanziari, a iniziare da Fondiaria SAI, dalle generali che peraltro hanno avuto una performance migliore delle attese, ma questo ha portato a liberarsi dai titoli. Per quanto riguarda i discorsi generali, c'era stato un forte recupero in attesa dei conti e poi le vendite scattate con i conti. Allora, per quel poco che ci capisco io di borsa, a me quello di oggi sembra un classico, diciamo, realizzo sui titoli che più erano cresciuti. Cioè, il Banco Popolare, lo dico a chi scrive al 349-238-6666, certo che è ancora distante dai 20 e passa euro che valeva un anno e mezzo fa, però era arrivato al 9 marzo, inizio marzo, a 2 euro, 2,5, 2,4 per azione, è risalito fino a 7 euro per azione, cioè ha guadagnato nell'ultimo mese e mezzo, mese qualcosa, il 220%, 230%, se anche un giorno perde il 13%, ci può stare a 5,80 euro. Forse Fondiaria è meno giustificato quanto a rialzo, però insomma in generale la borsa è ancora sopra di un 40% ai minimi e questi titoli avevano guadagnato parecchio. Tu dicevi le trimestrali. Io le ho viste, ma non mi sembravano così negative. Poi ne parleremo con i colleghi del Sole 24 Ore. Unicredito dimezza l'utile, ma è in linea con le attese degli analisti. Hypo Vereinsbank è tornata inutile, la controllata tedesca. Profumo ha detto sui dividendi vedremo, deciderà il consiglio di amministrazione. Generali ha chiuso il 2008, vabbè, lo sappiamo, con utili per 860 milioni, ma nei primi tre mesi nel primo trimestre ha fatto meno 88% negli utili a 104 milioni, ma un utile leggermente superiore alle attese. Altro dato, tu citavi il caso Mediolanum, meno 46%, 17 milioni di euro, Fondiaria SAI meno 80%, l'utile a 31 milioni di euro, e Allianz, vabbè, che ha il ramo vita in ripresa. Mi sembravano, Andrea, complessivamente dei dati abbastanza in linea con le attese. Cioè, nessuno si immaginava che i primi tre mesi del 2009 per banche e assicurazioni fossero un periodo dell'età dell'oro, no? Certamente questo sì, però per quanto riguarda Unicredit e generali, l'appuntamento dei conti è coinciso, cioè è arrivato alla fine di un percorso di crescita del titolo piuttosto significativo. Generali nelle ultime 10 sedute ha guadagnato tra il 12 e il 13%, un netto recupero le aveva messo in a segno anche Unicredit, quindi l'appuntamento dei conti è coinciso appunto con anche la possibilità di realizzare alla fine di una un percorso che arrivava ad attendersi i risultati trimestrali di un certo tipo. Questo si è verificato, tant'è vero che Generali ha cambiato completamente volto nella sua giornata di borsa, da prima dei conti al momento dei conti. Con questo poi si è aggiunto un peggioramento del mercato, ma per esempio l'assicurazione triestina ha fatto non molto peggio degli indici di riferimento. Unicredit è stata invece trascinata un po' più dai bancari, vediamo domani dall'andamento generale dei bancari, vedremo domani i conti di Intesa San Paolo, che ha perso oltre l'8%. Sì, vabbè, allora, secondo me così, per ora sulle banche e sulle assicurazioni ci sta tutto un calo dopo questa corsa fortissima, è superiore al 100% in media nell'ultimo mese, meno giustificata forse su altri titoli, perché le banche sappiamo sono in questo momento titoli di un settore molto molto volatile. Pirelli meno 7,5, Italcementi meno 7,2 come Buzzi Unice. A me sembra che tutto il mercato poi abbia preso una strada ribassista, come dite in gergo. Sì, certamente. certamente diciamo che il malumore del pomeriggio ha finito poi per avere pochi titoli che si sono salvati. Tra questi si è tornati chiaramente sui titoli cosiddetti difensivi, come vengono chiamati, per cui sui titoli in particolare del comparto elettrico, tant'è vero che Terna è stato il migliore, ha guadagnato l'1,4%, A2A, che tra l'altro oggi ha comunicato anche i conti trimestrali con una contrazione dell'utile dovuta alla Robin Tax, ma con un incremento dei ricavi ha guadagnato l'1%, si sono salvate Finmeccanica e Ansaldo STS, e invece altri titoli che avevano iniziato bene la seduta, anzi avevano proseguito anche fino a metà pomeriggio con una buona performance, è il caso di Mediaset, che ieri ha rilasciato conti trimestrali che sono piuttosto piaciuti pur nella contrazione al mercato, ecco che nel pomeriggio, come dicevi tu, l'andamento di tutto il mercato ha trascinato anche Mediaset a chiudere a meno 1, mentre durante la seduta il titolo aveva saputo correre con decisione. Sì, va anche detto che nel caso di Finmeccanica Ansaldo, soprattutto di Finmeccanica, c'è una notizia di mercato, ossia Finmeccanica ha firmato un contratto da quasi 1 miliardo di euro, 900 milioni di euro se non ricordo male, per fornire al nostro esercito 16 elicotteri, per cui questo può avere anche contribuito. Su Buzzi Unicem tu giustamente facevi notare che c'è anche una trimestrale in rosso, ma le previsioni, soprattutto Andrea, per il 2009 sono di un netto calo dell'utile operativo. Esatto, soprattutto è la stima sulla fine anno che ha finito per incidere sul titolo. Buzzi prevede che il risultato operativo del 2009 possa essere inferiore tra il 20 e il 30% rispetto a quello realizzato nel 2008, e diciamo che questa stima ha avuto effetti diciamo così anche sulla concorrente di Buzzi più diretta, cioè Italcementi, che ha perso anche lei il 7%, ma anche nel resto d'Europa il settore ha fatto fatica. Ecco, tra l'altro a me sorprende forse di più vedere che nonostante il petrolio si mantenga intorno ai $60 al barile, Eni perde l'1,5 e scende sulla soglia dei 17 euro per azione, ed Enel perde il 2,5 a 4,2 euro. Ecco, forse questo è meno giustificabile se non con una voglia di vendere anche su titoli non coinvolti, chiaramente, e che nulla hanno a che fare col mondo bancario. Volete sapere i migliori e i peggiori? Ve li diamo subito. Il peggiore in assoluto, Risanamento, settore immobiliare, meno 27%, il Banco Popolare tra i peggiori col suo meno 13,4%, e poi vabbè, Banco di Bilbao, Vizcaya, meno 11%, Bialetti Industrie, meno 25%. I migliori in assoluto, Uniland, più 14,9%, e poi Socoterm, più 5,4%, Gemina sul risparmio non convertibili e Telecom Italia Media sul risparmio, rispettivamente più 7,3% Telecom e più 7,3% Gemina e più 7,7% Telecom Italia. L'euro è sempre forte ed è a 1,36,2, per cui torniamo sui livelli di euro di un euro già interessanti. L'America sta peggiorando sul Dow Jones, meno 2% e meno 2,4% l'indice Nasdaq. Grazie ad Andrea Fontana. :17:49, allora come promesso, con oggi inizia una settimana e dei giorni importanti, iniziano per le nostre banche i conti dei primi tre mesi di questo 2009. Oggi hanno aperto le danze Unicredito, Generali, ma anche Fondiaria Assai. Utile netto dimezzato per Unicredito, scende a 447 milioni di euro, un dato però, nonostante il meno 58% rispetto ai primi tre mesi del 2008, quindi a un anno fa, risultato, dicevo, in linea con le attese, tant'è che Alessandro Profumo dice parleremo di dividendi in consiglio di amministrazione, però il gruppo fa sapere che non ha ancora fatto ricorso né ai Tremonti Bond né all'equivalente messo dal governo austriaco, e poi soprattutto la controllata tedesca di UniCredit Hypo Vereinsbank torna inutile nei primi tre mesi del 2009 a 62 milioni di euro. Questo per quello che riguarda la prima banca italiana, la capitalizzazione non la ricordo più con intesa, insomma era la prima banca italiana, certo prima della crisi valeva 93 miliardi di euro come capitalizzazione, mo ne vale un terzo, 30 miliardi. Generali, quindi tra i primi tre gruppi europei di assicurazione, sono tutti lì testa a testa, Generali, AXA e Allianz, Italia, Francia e Germania. Vale in borsa 24 miliardi di euro e oggi ha diffuso la trimestrale, meno 88% gli utili del Leone Triestino a 104 milioni, ha dovuto anche svalutare partecipazioni per 1,5 miliardi, e questo non è poco, nel trimestre, tanta roba. Tant'è che il calo risulta leggermente superiore alle attese degli analisti, ma comunque i premi vanno bene, 18,5 miliardi, il ramo danni più 3,5, però dicono da Trieste le previsioni sul 2009, su come chiuderemo il 2009, restano molto difficili. Fondiaria SAI, primi tre mesi dell'anno meno 80% a 31 milioni di euro, i premi vanno giù del 14,8%, e poi c'è il colosso tedesco Allianz che ha chiuso i primi tre mesi con un utile operativo a 1,4 miliardi di euro e utile netto senza la cessione di Dresdner in calo del 70% a 424 milioni di euro. Chiudiamo con ING, che voi conoscete per il conto arancio, il primo trimestre meno 793 milioni di euro come perdita contro un utile di 1,5 miliardi dei primi tre mesi del 2008. Alessandro Graziani del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Beh, insomma, le ferite, le cicatrici le abbiamo raccontate, perché insomma vedere anche gli olandesi di ING perdere quasi 800 milioni di euro nei primi tre mesi, quando l'anno scorso guadagnavano 1,5 miliardi, la dice lunga su che mesi siano stati i primi tre di quest'anno. Però vorrei capire, insomma, c'è qualche legame, parlo dell'Italia in questo caso, tra i conti diffusi oggi da UniCredit, Generali, devo dire in linea, le attese per domani su Intesa San Paolo e il tonfo del settore bancario oggi? In borsa, chiaramente. Diciamo, non è direttamente correlato, almeno sentendo il parere degli operatori e degli analisti, perché c'è stato negli ultimi due mesi un rimbalzo clamoroso soprattutto dei titoli bancari, UniCredit in particolare, che è triplicato rispetto al minimo toccato due mesi fa, e gli utili che hanno diffuso oggi sono sostanzialmente in linea con le aspettative degli analisti, come hai detto tu, anche andando a guardare che poi al di là dell'utile netto finale, la composizione del conto economico, la parte principale che era attesa da parte del mercato era a quanto ammontassero gli accantonamenti e le rettifiche sui crediti, che nel primo trimestre sono usciti di 1,6 miliardi di euro, che è una cifra enorme, ed era più o meno in linea però con quanto si aspettava il mercato, ed è anche sostanzialmente allineato all'ultimo trimestre del 2008, che è quello su cui la crisi aveva più pesato. Naturalmente, se uno fa il confronto col primo trimestre del 2008, la differenza è enorme, però siamo in fase di crisi da sei mesi, in fase di crisi profonda, e naturalmente il fatto di uscire con risultati che sono in linea con attese negative è già qualcosa, certo. È qualcosa, anche se ovviamente non galvanizza il mercato, però non c'era nessun motivo per cui negli ultime settimane i titoli delle banche dovessero riprendere in questo modo così clamoroso. Cioè tu dici è più strano il 90, quasi 100% che ha fatto l'indice di settore europeo, l'indice bancario europeo nell'ultimo mese, che non il calo di oggi, perché non c'era motivo per tutto questo entusiasmo. Esatto, anche perché nella sostanza più o meno scampato il pericolo dei grandi fallimenti bancari, l'indice bancario è risalito proprio per questo motivo, in attesa dei risultati trimestrali che adesso iniziano a uscire, sono sostanzialmente in linea con le attese e quindi in linea con il resto del mercato ci sono le prese di profitto, come sì, era anche preventivato dagli analisti tecnici, dai graficisti. Ecco, va detto che appunto vedere che Unicredit mette, lo dico chi scrive, accantonare e rettificare, significa mettere dei soldi da parte perché si sa che serviranno più avanti. Quando uno accantona dei soldi vuol dire che prevede le perdite o delle rettifiche, ossia se tu avevi qualcosa in portafoglio che secondo te valeva 10, vedi il caso di certi investimenti in finanza creativa, derivata e poi tossica, e poi ti rendi conto che quel valore lì è crollato e vale 1, devi rettificare, devi dire no, quella roba lì che ho non vale più 10, vale 1. Questo significa comunque dover accantonare dei soldi per coprire quelle che erano, quelle che sono svalutazioni. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere l'approfondimento legato alle banche e poi passare alla vicenda all'Italia. Alessandro Graziani, come sono andati, dicevamo, questi stress test applicati al mondo bancario italiano, immaginando un calo del PIL intorno a quello previsto dall'OCSE, 4,4%? Per ora, da quanto abbiamo pubblicato noi sul Sole 24 Ore, ci sono una serie di centri studi che considerano sufficiente il capitale delle banche per affrontare la crisi economica che è in corso ormai da mesi. Tornando però all'argomento che avevamo affrontato all'inizio, cioè il paragone che facevamo tra i risultati delle assicurazioni generali, fondiarie assai, e quelli delle banche, mi sembra importante sottolineare che il crollo degli utili delle assicurazioni è dovuto principalmente alla discesa dei valori di borsa delle società in cui loro investono, e questo è tipico delle assicurazioni: investire in società quotate o in titoli obbligazionari, e quindi il mercato almeno fino a metà marzo era sceso, e quindi nelle trimestrali il valore non poteva che essere quello, ma nell'ultimo mese e mezzo sappiamo che invece è rimbalzato in alcuni casi anche in maniera consistente, mentre nel caso dei bilanci bancari risulta una fortissimi accantonamenti sui crediti alle imprese principalmente e anche alle famiglie, il che vuol dire che il quadro macroeconomico in Italia nel primo trimestre è peggiorato in modo sensibile, e credo che questo sia l'indicatore che era un po' più atteso per capire l'evoluzione dell'economia italiana in questo primo trimestre. Alessandro, un'ultima nota su una vicenda molto più specifica che riguarda il gruppo Intesa e il patto con il patto tra le Crédit Agricole e le Generali sulle rispettive partecipazioni in Intesa San Paolo, ossia il 5% per le Generali e il 5,5% per Crédit Agricole. La vicenda data 2006, quando per ottenere dall'antitrust via libera la fusione con San Paolo, il gruppo Intesa si era impegnato affinché il Crédit Agricole riducesse entro il 2009 la sua partecipazione sotto il 2% e uscisse dalla governance della banca, per cui attualmente la partecipazione del Crédit Agricole è intorno appunto al 5,5%. Qual è lo stato dell'arte? Perché abbiamo visto l'antitrust intervenire su questo. Sì, l'antitrust informalmente per il momento ha fatto capire di non considerare valido il patto di consultazione, che nei fatti secondo l'antitrust è un vero e proprio patto di sindacato, perché è un patto di voto nel capitale Intesa San Paolo. Domani si riunisce l'antitrust, che a questo punto quasi inevitabilmente aprirà un'istruttoria sul caso, e quindi a meno che nelle prossime ore, prima che si riuniscano antitrust, le generali e l'Agricol non decidano di cambiare in extremis il testo del patto, inevitabilmente si andrà a un confronto con l'autorità che può portare a, anche a una sanzione elevata nei confronti di Intesa San Paolo, che si era posta come interlocutore, come garante unico degli accordi che erano stati stipulati 2 anni fa tra i vari azionisti del gruppo. Per cui, insomma, per quanto diciamo a livello informale, ma come si dice in questi casi, si è acceso e resta acceso il faro dell'antitrust. Vedremo che sviluppi prenderà la vicenda. Domani ricordo che c'è la trimestrale anche del gruppo Intesa. Grazie Alessandro Graziani del Sole 24 Ore. Adesso cambiamo tema, ultimo tema di questa puntata, e mi riferisco chiaramente all'Italia, visto che il 13 gennaio scorso, e quindi 4 mesi esatti, nasceva la nuova Alitalia e è già tempo di bilanci. Nuova Alitalia, ossia 76 destinazioni e 700 voli quotidiani rispetto ai 1000 circa della precedente Alitalia, della vecchia Alitalia. Oggi conferenza stampa dei vertici, mi riferisco al presidente Colanin, all'amministratore delegato Rocco Sabelli, confermato che l'hub vero e proprio è Fiumicino, l'aeroporto di smistamento e di riferimento, ma confermato anche il ruolo un po' più a rete degli altri aeroporti scelti come basi, oltre a Roma, Milano, Venezia, Torino, Napoli e Palermo-Catania. Dovrebbero diventare 78 le destinazioni da Fiumicino, attualmente sono 69, 23 nazionali, 24 europee, 22 intercontinentali, con 1600 frequenze settimanali. Comunque, dicevo che tempo di bilanci, la nuova Alitalia è partita ma non senza difficoltà, i dati migliori però si stanno avendo nel mese di aprile, sia sul fronte del riempimento dei velivoli, che ha toccato il 65%, che anche sul fronte dei passeggeri da e per Fiumicino aumentati del 54% rispetto a gennaio. Questo è aprile, più difficile invece i mesi precedenti, quindi gennaio, febbraio e marzo, come ci racconta questa scheda. A 4 mesi esatti dall'avvio della nuova Alitalia, la situazione sembra migliorare, anche se il decollo non è stato del tutto facile. A pesare è stato innanzitutto il calo del 9% del traffico passeggeri sul mercato italiano nei primi 3 mesi dell'anno. Una flessione di oltre 3 punti percentuali, superiore al dato a livello mondiale e il peggiore in Europa subito dopo la Scandinavia. E il calo del traffico passeggeri si è fatto sentire sulla capacità di Alitalia di riempire i propri aerei. A fine gennaio solo 42 posti su 100 erano occupati, mentre a fine aprile la situazione migliorava raggiungendo 65-66 posti occupati su 100. Passi avanti dunque dal punto di vista del riempimento dei velivoli, ma restano alcune criticità sulla regolarità del servizio in alcune tratte e sulla puntualità dei voli. Sul primo fronte, ossia la percentuale di voli realmente effettuati rispetto a quelli programmati, se da gennaio la media Alitalia è stata alta, pari al 98,6%, ossia è stato cancellato meno del 2% dei voli, sulla tratta più importante, la Roma-Milano, tra fine febbraio e fine marzo sono stati cancellati anche 10 voli su 100. Per quanto riguarda la puntualità, invece, la scritta delayed è rimasta familiare per molti passeggeri che hanno scelto Alitalia. Nei primi 4 mesi di gestione CAI, quasi un terzo dei voli è atterrato con ritardi superiori a 15 minuti. In particolare, i ritardi oltre i 15 minuti negli arrivi a Fiumicino sono stati pari al 22% dei voli contro il 19% del primo trimestre 2008. Inoltre, nelle partenze da Fiumicino, i ritardi superiori al quarto d'ora hanno riguardato il 44% dei voli, oltre il doppio rispetto all'anno prima. Quindi problemi ancora sulla tratta Roma-Milano, Linate e Fiumicino soprattutto, migliora la situazione ad aprile e poi la conferma arrivata anche oggi da Roberto Colaninno, che l'unico hub per il momento, anzi l'unico hub e basta, come in senso stretto, è Fiumicino, Malpensa addirittura definito come aeroporto già low cost. Marco Alfieri, Sole 24 Ore, il nostro ospite, buonasera Marco. Buonasera a voi.

anzi sono andato a Malpensa quando andavo in Sud America, perché o andavo a Malpensa o andavo a Fiumicino e tutti i voli partivano da lì, però partivo alla mattina, partivo alle 3 del pomeriggio e l'aereo era a mezzanotte la sera. Vabbè, chiaramente Colanino si riferiva al fatto che lui vive spesso a Mantova e quindi da lì Verona e Francoforte, e riferimento era agli imprenditori di quell'area del nord-est, ma non è un mistero per nessuno che o Verona Francoforte o Venezia Francoforte nessuno vada da lì a Malpensa. Marco Alfieri, a questo punto Malpensa low cost, la sfida diventa come Malpensa riuscirà a integrare l'Italia con Lufthansa, con altri operatori, gli accordi bilaterali. Mi sembra che l'Italia su questo non abbia più dubbi. Sì, assolutamente. Diciamo che oggi si è tolta l'ultima foglia di fico sul ruolo, sul potenziale doppio hub che l'Italia in qualche modo poteva sviluppare. Un dualismo deteriore che si è trascinato nell'ultimo anno e mezzo e soprattutto ha causato anche la debacle della vecchia Alitalia, cioè l'incapacità di decidere sui due scali ha portato poi al default. Quindi oggi, diciamo così, paradossalmente la notizia è positiva per Malpensa, perché si mette il punto, la parola fine su questa cosa, e oggi Malpensa, come d'altronde SEA, cioè il gestore che gestisce gli aeroporti milanesi, sta già facendo da un po' di tempo, potrà iniziare in maniera meno ipocrita anche a lavorare per trovare nuove soluzioni. La prima ovviamente è questo accordo, questo piano scala siglato con Lufthansa, ha portato anche alla nascita di una newco di diritto italiano, cioè Lufthansa Italia, che sta già operando con 56 voli giornalieri da Malpensa. Il futuro è quello, cioè creare una sorta di secessione aeronautica, come ho anche scritto sul Sole 24 Ore, cioè integrare, far diventare Malpensa di fatto il quarto hub di Lufthansa, integrando poi con tutta la divisione low cost, penso a EasyJet, per permettere appunto a Malpensa di decollare, ovviamente a questo punto non più abbracciata ad Alitalia, questo mi sembra evidente. Sì, anche perché Alitalia ha tagliato in maniera brusca, ne abbiamo parlato con Bonomi, tutti i voli da Malpensa, mentre su Linate il ragionamento è diverso, perché lì la tratta business Linate Fiumicino. Fondamentale a questo punto, al di là del ruolo di Lufthansa, però, sarà la rinegoziazione degli accordi bilaterali, quegli accordi che permettono a una compagnia di volare verso paesi extra Unione Europea. Il governo si era impegnato a gennaio a promuovere entro 30 giorni la rinegoziazione, però su 30 pratiche solo 3 sono state sbloccate, quelle con Cina, Taiwan e Corea del Sud. Assolutamente così, sì, diciamo che il governo non è che si stia impegnando troppo, sono pratiche ovviamente governative, i rapporti bilaterali investono ministeri degli esteri e primi ministri, e quindi ci vuole un pressing diplomatico e negoziale forte. Sono in corso una serie di negoziazioni, penso per esempio al Brasile, alla Russia, a Taiwan, alla Corea del Sud, al Bangladesh, al Kuwait, al Bahrain, Israele, su cui si è riusciti ad allargare il raggio del network. Ovviamente ci vuole tempo, il presidente Bonomi parlava di un paio d'anni per rivisitare questi accordi bilaterali, solo 3 finora sono stati attivati, e ovviamente c'è un po' il gioco delle parti, perché per esempio l'Unione Europea ha appena votato una norma che congela per 6 mesi la liberalizzazione degli slot, e quindi questo potrebbe per esempio rendere un pochino più impervia la strada verso la liberalizzazione. Bonomi lo dice da tempo, non vogliamo aiuti, chiediamo semplicemente la possibilità di poter attrarre nuovi vettori. I bilaterali sono una strada lunga, ma credo che sia l'unica possibilità per permettere a Malpensa di ripartire, oltre ovviamente al completamento delle infrastrutture di collegamento, perché è l'altro punto dolente. Sì, diciamo che con oggi storicamente si chiude anche quello che tutti gli economisti, non lo diciamo noi, tutti coloro che quali sono occupati dell'Italia, hanno definito come il masso che ha affogato definitivamente la vecchia Alitalia, cioè l'idea che una compagnia piccola rispetto ad altre come all'Italia potesse avere 2 hub che la Lufthansa si può permettere, ossia Francoforte e Monaco, ma è proprio lei, la British Airways ha solo Londra, 2 hub per voleri politici, lo sappiamo tutti, e quindi aver disperso e distrutto risorse tra Fiumicino e Malpensa. Malpensa in questo momento diventa un aeroporto lombardo, diciamo lombardo-piemontese, perché il nord-est non lo sta già usando da tempo. La sfida sarà appunto su quali altre connessioni di infrastrutture e poi quali altre tratte riuscirà a coprire. Grazie a Marco Alfieri. L'ultimo aggiornamento è su Wall Street, che in questo momento perde l'1,7%, quindi è ferma sul calo che ormai registra da un'ora. Da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.